La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Storia di Armando Prieto Perez, una storia che inizia a Cuba e che continua in Italia, a Milano. È qui che arriva a 24 anni Armando, in tasca il sogno di dipingere, nell'altra mano le possibilità e le incognite che offre un posto nuovo. Per molto tempo Armando farà un po' tutti i lavori, dal barista al buttafuori al modello. Intanto, dipingendo e scolpendo, si creerà un suo pubblico e una rete di amici. Sarà così, in una serata tra amici, che debutterà come narratore di storie erotiche, una dote che nasce dall'esperienza. Perez ha infatti dichiarato d'aver avuto 150 donne e che diventerà poi un libro dal titolo inequivocabile «Tutte le volte che vuoi». Sono venuto come turista, poi sono rimasto. Poi ho deciso di restare, sì, è stato così. Quindi diciamo che quel momento lì della partenza non è stato simbolico come di qualcuno che lascia la sua terra, che dà un addio alla sua terra? Sai, al di là che uno lo sappia o meno, che resterà o meno, è così. Se poi alla fine resti, magari semplicemente non te ne sei accorto che stavi per restare mentre lasciavi, ma sì, comunque ho avuto quel peso, l'ho avuto sicuramente, sì. Ed è tornato adesso a Cuba? Diciamo che non torno da 2 anni e mezzo, 3. Infatti mi manca. Cos'è che le manca di più, diciamo, della sua terra? Beh, mi manca la qualità delle persone, che è diversa, non è né peggio né meglio, semplicemente diversa, riconoscibile, e mi manca molto la natura cubana, la luce di Cuba che è molto particolare, sì, è sicuramente L'Avana, che è una città che amo proprio. Ecco, le volevo chiedere anche questo. Quindi questo è quello che lei racconta di Cuba. Com'è stato quando è arrivato invece in Italia, a Milano? Se l'aspettava così? Se lo ricorda cosa ha provato quando è arrivato qui? Sì, mi ricordo. Una delle cose che più mi piacevano erano le luci notturne della città, molto belle. Mi divertivo un sacco e una delle cose magari che meno mi è piaciuta è stata le nuvole del cielo, che erano, sembrava che avevi il cielo non tanto bello proprio addosso. E le luci quali? Le luci proprio quelle dei lampioni? Sì, lampioni, macchine, tutto. Trovavo divertente la quantità di spettri di luce che c'erano. Quando lei studiava all'Accademia di Belle Arti dell'Avana, quali speranze coltivava? Ma penso un po' come dappertutto, che c'è molta passione, molto amore e poi effettivamente tante aspirazioni che con il tempo possono cambiare, possono crescere, ridursi. Insomma, ho visto tanti amici fare l'Accademia e poi non dedicarsi mai alla pittura. Io poi non conclusi gli studi, cioè lasciai l'Accademia più o meno verso metà e per dedicarmi a dipingere, però e ho dipinto tanto e attualmente ancora faccio pittura, scultura. È una delle cose che più mi riempie, anche più mi dà soddisfazione, ecco. E le dispiace aver lasciato l'Accademia a metà, diciamo, non averla conclusa? No. È una cosa molto intelligente che ho fatto in vita mia è stata entrare in Accademia, perché è un ambiente con cui confrontarsi sicuramente, un'altra altrettanto intelligente è stata lasciarla quando non mi dava più nulla, insomma. Ma perché dice che non le dava più nulla? Ma perché quando, sì, quando qualcosa si stabilizza in una direzione in cui insomma la passione inizia ad affievolirsi e non stai nemmeno più prendendo cose a livello di conoscenza, se non cose che puoi apprendere dai libri, che a questo punto me li leggo anche sdraiato, penso che la faccenda perde molto interesse. Tieni conto che quando si fa qualcosa, si studiano le arti, per esempio, è meglio avere un maestro di riferimento, intendo qualcuno che abbia delle cose da passare, perché in quel campo c'è tanto mestiere, tante nozioni da passare, e che però è molto difficile trasmetterle per iscritto, vanno trasmesse più dal vivo, e sai, hai un talento che sta in quel momento nascendo e quello che ci vuole è qualcuno che lo sappia riconoscere nella sua specificità, perché più o meno di quello si tratta. Se non ci sono quelle persone in una scuola d'arte, insomma, butta male. Lei poi l'ha trovata questa persona anche dopo, o l'ha cercata, la sta cercando, l'ha trovata? No, la trovo a pezzettini in giro. Cioè, trova in ognuno delle cose che la ispirano e le piacciono, e poi... Ma questo non è un po' nel suo carattere, anche perché ho letto su Vanity Fair che lei è anche uno che conquista molto, che ha voglia proprio di conquistare le donne, forse anche nella vita è così lei? Sì, sì, sì, è proprio un aspetto astrologico. Cioè? Ce l'ho nel mio tema natale, nel mio tema di nascita, la prima volta che conobbi quello che attualmente, insomma, frequento come il mio astrologo, me lo ha descritto perfettamente, e sono rimasto sbalordito, no? Di qualcuno che ti descrive un processo intimo di quelli che magari... chi ti sta vicino magari, insomma, ha imparato a conoscerti solo con gli anni, invece lui te lo descrive in un attimo, sono rimasto e ho detto, ah, caspita, è vero, che è proprio così, ho un bisogno per determinati aspetti, ripeto, di nascita dei pianeti, insomma, ho bisogno permanente di conquistare delle cose, poi ho problemi a invece mantenerle. o raccogliere i frutti, infatti mi circondo di persone brave in quell'aspetto lì. Ma non le manca quell'aspetto, come dire, dell'approfondire, dell'andare oltre la conquista? Sì, sì, sì, assolutamente, infatti la soluzione che trovo è quella di diversificare. Mi dedico a diverse attività, cioè mi dedico alla scrittura, mi dedico alla pittura, alla scultura, all'ipnosi regressiva, alle costellazioni familiari, cioè all'ambito olistico, e quindi io ho occasione di crescere continuamente e poi a un certo punto spostarmi di attività, crescere ulteriormente e faccio il giro, poi ritorno all'attività che ho lasciato per un attimo e la riprendo con occhi nuovi e cresco ancora in quell'attività, quindi in realtà è un processo sia di conquista che di approfondimento. Dopodiché, quando uno è totale nel qui e ora, o cerca di esserlo almeno, o se no è infelice. Chiaro, chiaro, chiaro. No, ma io sono molto d'accordo che un modo di fare, di andare, diciamo, da oggetto in oggetto genera molta superficialità e a un certo punto sì, me ne sono accorto. Quella di oggi è la storia di un ragazzo cubano, un artista, che arriva a Milano e su Milano si butta con la passione dei ventenni, amando i luoghi, i colori e le donne, fino a quando la vita, procedendo, non fa cambiare il passo e permette a Perez di diventare padre e di toccare con mano la profondità di un legame d'amore. La prima volta. L'impresa nazionale Autolinee ha il piacere di annunciare che per la Corriera Manzaniglio Lavana sarà venduto un biglietto. Uno non può passare tutta la vita in questa stazione. Chi è l'ultimo? Un momento, anche se non sembra, sono due giorni che io sto in fila e non andremo via neanche fra tre giorni. Chi è l'ultimo fra i portatori di handicap? No, io sto qui da ieri con un bambino e un bambino ha gli stessi diritti di un cieco. Senti, ascolta, io ho il diritto di passare. Sì, ma ognuno ha i suoi problemi, compagna. Chi è l'ultimo? Vediamo, voi dove andate? A Lavana. I giorni dispari va a Lavana e quelli pari a Santiago. Tanti anni che fanno la fila e non hanno ancora imparato. Perché no? Non pitturiamo tutto quanto. Qualunque cosa decidiate di fare, contate pure su di me. Ma che cazzo significa questo? In lista d'attesa, il film diretto da Juan Carlos Tabio e ambientato a Cuba, i personaggi fermi in una piccola stazione di autobus non riescono mai a partire. Invece, Armando Perez partirà, un visto turistico per l'Italia e poi il sogno di vivere in Europa come artista. Ci riuscirà, passando attraverso tanti lavori e conoscendo molte persone. Armando riuscirà a crearsi uno spazio dove coltivare l'amore per l'arte e l'amore per le donne, un interesse che diverrà un libro erotico, edito da Rizzoli, dal titolo Tutte le volte che vuoi, una storia quasi autobiografica che racconta tutto di questo artista, ma non la parte più profonda e intima che ha a che fare con l'amore e la nascita di una bambina. Io scrivo da diverso tempo, perché ho sempre scritto un po' le mie sceneggiature, faccio documentari, cortometraggi e sto preparando qualche lungometraggio da anni. Sono progetti che poi si curano a lungo termine. E invece romanzi o racconti no. Tuttavia una sera, qualche anno fa, a cena da un'amica, insomma un'amica che mi stuzzicava lì a cena con tante persone, amici suoi eccetera, a raccontare le mie turpitudini così, e io ci stavo al gioco, quindi rincaravo le dosi e raccontavo le cose più inverosimili che mi erano successe, divertendomi, e niente, a un certo punto dopo la cena così un personaggio che era lì all'angolo zitto che è il capo narrativo a Rizzoli e narrativa italiana, mi avvicinò e mi disse: ma ce lo metti per iscritto, che forse ci interessa? E quindi allora lì iniziai già a mettere giù insomma un racconto lungo che poi diventò romanzo, e insomma diedi i primi capitoli e interessò e mi dissero sì, allora vai avanti e siamo arrivati qui. Senta, in questo libro il personaggio ricorda molto lei, no? Perché lei quando è arrivato a Milano ha fatto diversi lavori, insomma non è andata subito bene, ha dovuto fare un po' di fatica prima. Sì, che non sempre era fatica, era anche, aveva un suo lato sicuramente inatteso, perché uno diceva io faccio il pintore, cosa faccio a fare quell'altro lavoro là, però sì, mi somiglia per il semplice fatto che il lavoro lo cerco di lavorare solo con materiale che conosco, materiale con cui, non che conosco, però con cui posso fare confidenza, ecco, quindi sì, ho usato parecchio della mia vita nel libro. E io non l'ho finito di leggere perché mi è arrivato proprio da poco. Nella storia del romanzo il protagonista comunque si innamora poi di una donna, nonostante ne abbia molte. Lei si innamora tutte le volte o è una cosa che invece non è sicuramente non è la cosa più frequente. A me sì, mi è successo con una certa frequenza, sì, mi è successo, anche perché mi sono più esposto, diciamo, alla probabilità in quel senso. E, attualmente sì, sono molto innamorato della mia compagna e mi trovo molto bene con mia figlia, quindi posso parlare del presente, ecco, è sempre più comodo. Ah, lei ha una figlia, quindi adesso lei è in una nuova fase della sua vita. Assolutamente, assolutamente. Cioè, proprio mentre stavo uscendo fuori con questa immagine di me, stavo cambiando la pelle. È interessante, sì. Bellissima questa cosa. Quanti anni ha la bambina? No, ha solo 10 mesi. Sì, sembra una specie di capitolo, di cambiamento di capitolo, ecco, di vita. È tremendo, è spiazzante per cominciare, è proprio spiazzante, e poi niente, mi sono accorto che insomma avevo tanta paura di fare questa cosa, e infatti mentre stava accadendo, no? Mentre abbiamo scoperto che era incinta, devo ammettere che insomma mi vedevo intorno tanta paura, sia a me stesso che al resto delle persone, no? Che per avere un figlio, però sei a posto coi conti, hai fatto i conti, solo paura. Poi quando mi sono rilassato invece ho trovato una grande gioia nell'ospitare un'animetta che arriva. Sono molto contenta che tu abbia una bambina, non so come spiegarlo, lo scoprirai nel tempo, è un baricentro per la felicità. Già adesso è così, già ogni tanto quando sono con lei e per casualità, sai, ti incroci lo sguardo con uno specchio, mi accorgo che c'è una faccia da ebete proprio, smarrito completamente, e mi altera lo stato di coscienza. Sì, a me i suoi occhi mi hanno, era nata che mi ha guardato, insomma, aveva gli occhi aperti perché sembrava che era affacciata in un altro mondo praticamente, ecco, quello mi ha lasciato una grande impressione. La vita reale ha dunque preso altre direzioni. Perez, che fino ad allora aveva coltivato il culto della conquista, oggi è padre, innamorato, pronto a vivere una nuova vita. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Se volete potete riascoltarci in podcast. Scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli.